Ieri sera bevo a cena, noi ministri ma che avanzi di galera. Ieri sera bevo a cena, l'intera banda della Magliana dopo una rapina. Il padre che si spaccò la schiena, la ragazzi che gli spaccarono il cu per diventare velina. Tarantino impalpicciando un cardinale, con charme e von Don Capri, perché i mafiosi le chiamano Don. Erano le 9 appena ed avevano mangiato tutto, ma nessuno si sentiva pancia piena e stranamente non trovavo più il gatto. Ieri sera bevo a cena, no, Loris non c'era, che non aveva benzina. Una teenager sulla quarantina, con qualche chilo di troppo ed una barba in cantina. Una malinconica isolata di guai, perché nessuno andava a trovarla mai. 24.000 baci, 9 miliardi di cristi e tristi consigli per gli acquisti. Erano le 9 appena ed avevano mangiato tutto, ma nessuno si sentiva pancia piena e stranamente non trovavo più il gatto. Di sottofondo una canzone dei Guns, e ieri sera ce n'avevo trans. Racconto storie interessanti sugli amanti e sulla vita dei clienti. Che senso aveva ancora fare gli ultras? Così che l'Enel ci staccò pure il gas. E mangerò cibi precotti e cande blu, oppure allestiremo un barbecue. Erano le 9 appena ed avevano mangiato tutto, ma nessuno si sentiva pancia piena e stranamente non trovavo più il gatto. Elvis non è morto, era a casa mia, l'ho visto giocare a carte con la zia follia, ma mi rendi conto che stavo delirando. Fino a quando d'un tratto salza una ragazza da sogno, mi disse bello dimmi dov'è il bagno. Io la seguì furtivamente per scoprire a mie spese che le dissi cara se stai male vai a letto, ma lei aveva già mangiato tutto. Così improvvisamente ed un tratto vedi il mio gatto nello sbratto.